Dove è stato questo? Buonasera e buongiorno, come sempre qua all'ultima puntata prima di se cazzi feste di Natale. Zio Pino Moscio, te ne bisogna pure di se riposare cazzi poco, no? Giustamente ci vuole per stare. E papà, siccome tu zappa a terra tutto il giorno, non ti preoccupare, non esagero. Ci scusiamo per questo interferma, mi detto si cazzi gente in Giacosenza, non vedi? Cari amici, turisti, e come tutti i giorni siamo qua a rompicoglione della gente. C'è sempre chi piccioni Maria Francesca, gioia mia. Io mi senti fermo con questi mani, con voglione mia nuova e notanista. Ciò che è un giornalista è un giornato. Come ha detto, ciamba? No, come non detto, non detto niente. Comunque, Maria Francesca, per piacere, arrivate nei sponsor. Allora, onorenze funebri, ultimo viaggio di Ginozzi imbalsamato. A Bancareggio da Zizzo, ogni giovedì era c'è parrende, 155 cm roba buona. E poi c'è un cugino da Zizzo, Mustafa, cavinna CD masterizzati a Corso Mazzini. Ricordiamo che i CD dei film di Natale sono già in vendita. Buono, buono, grazie a tutti i sponsor che li supportano. Grazie, amore. Stasera siamo vicino all'Anas a Cosenzi, che pare che c'è una zona trafficata. Capi, capi! E te che sciuto che siamo? Guarda il mare quanto è bello! Saggio cazzi i giochi per Francesco, ma dove che sciuto? Non ci hai detto per venire appresso stasera a Saggio cazzi i giochi con... Ecco, stavo dicendo, no? Prima che mi interrompi, ecco cazzo incatrammato. La siamo vicino a Guana a Sacco Senze. E si dice che nella zona poco trafficata c'è gente che va, che viene. E come sono tutti noi, siamo pronti a rompere i coglioni. Tanto mi pagano, che me ne può fregare. Al massimo mi vanno all'ospedale, ma c'è in casa. Zio Pio, vedi che dicono che questa è una zona scambista. E che si cangiano le figurine, si cangiano, e me ne prendiamo più piacere. Vabbè, chi va scangio moglier, ma questa bella giovane che tiene? Ma detto? Vieni, giovane, che ti faccio scialare. E che fa beneficenza? Ma vedi tu, se cazzi, va ti curca che cranca tu, a che cangiamo ti moglierta. Oh, avevi ragione, ma... Ciao, tesoro. Ti va se ci scambiamo? Vediamo se riusciamo a chiappare a andare in diretta. Fatti vedere, buono, fatti vedere. Vieni qua, vieni qua, vieni sull'uscio. Ma dobbiamo fare la puntata. Sì, sì, con una mano non ce l'avete curca, va, la puntata la facciamo dopo. Come sei alluppato, zio Pio? Guarda qua. Ma che è? Che ci ti dimentica? Guarda, che non ti mangio, zio Pio. Ma zio Pio che va tra le sue ali. Bene, vediamo se potremmo ripigliare questa trasmissione, qua aiuta una poca puttana nel vero senso della parola. Ma che succede dentro la macchina? Ghiacciano pure si scintille, vedi come ci minano. Abbiamo sgamato una bella coppietta, mi sa. Con salute! Zappi! Mamma! Ha visto come sei già bravo? Hai fatto tutti i pezzi! Prima biglietto! Dopo figlia e mo pure mamma ta. E visto come si gli bravo, buona tele a tutti, gigabè, gigabè, gigavolue, gigabè, hai visto come canta bene? Ma chi ti è morto per fregare?